Una buona sera o una buonanotte, come insomma preferite, da Max Macchia ed Elisio Scarpa. Fai tutto tu? Tutto io faccio stasera. Mi fa piacere. Ti fa piacere. Sei contento? Sì, un po' sudato perché ce la siamo fatta a piedi, però... Sì, abbiamo attraversato la città a piedi, tanto non c'era nessuno. Sì, infatti, c'era una grande umidità, qualche piccolo animale che scendeva dai colli, però va bene. Sì, tu l'hai vista domenica scorsa? Ho visto una bella volpe che passava sui viali con un bel topo morto in bocca. Era una scena abbastanza apocalittica. Sì, quasi da quasi rappresentativa del momento di crisi e di devastazione che ci aspetterà, dato i proclami di questo simpatico Super Monti in prospettiva a gennaio, insomma. Però non c'è più Radio Monti, non c'è più Radio Monti, hanno cominciato a mollare perché hanno capito che in realtà, insomma, è un grandissimo pacco, per cui... è un pacco, però epocale, direi. Qua la stretta è arrivata, altro che il Berlusca. È arrivato quello che ci stanga per bene tutti. E l'Europa canta. E l'Europa canta. Però non diciamo cosa, cosa canta. Questa sera noi andremo non nelle grandi centrali europee o mondiali, ma ci sposteremo più sulla suburbanità, sulla periferia, su aspetti che consideriamo sia a livello sonoro, ma anche in termini così, se non sociali. Me lo accennavamo un po' anche nella scorsa trasmissione dedicata al dubstep. Comunque sì, vediamo anche dei prodromi di qualcosa che potrebbe esplodere, per certi versi lo ha anche successo, come esplosioni veloci, molto anche violente, però poi spentesi, insomma, in un momento anche molto è altrettanto veloce, e, ovvero insomma le rivolte anche delle suburbie, delle periferie dell'impero, così si potrebbe chiamare, se ci vogliamo intendere così, intendetela in maniera, insomma, non strettamente analitica, questo impero, e che poi, insomma, ci andremo veramente a impelagare in discorsi. Sì. Ecco, non è il caso magari di farlo in questo momento, forse lo faremo più avanti, chissà, forse saremo costretti a farlo, ma forse questo è anche un po' un augurio. Sì, forse questo è più un augurio, infatti. Speriamo di poter essere costretti a farlo. Comunque sì, come giustamente Max introduceva, trasmissione che abbiamo deciso di chiamare Suburban Waves, è una sorta di racconto audio, ma anche per certi versi visivo, almeno nelle nostre menti, una rappresentazione di quello che a livello sonoro può rappresentare la dimensione suburbana, la prima periferia, l'aspetto di congiunzione tra la metropoli, le grandi metropoli, e la campagna vicina appunto alla primissima periferia. E dunque una lettura quasi anche di una dimensione post-industriale, con dei suoni che attraversano sia l'industrial che l'ambient, il drone, la techno, è un certo dub che abbiamo affrontato appunto nelle ultime due puntate, sia l'extra techno che il dubology dedicata alla dubstep. E dunque viaggeremo attraverso questi suoni, a rappresentare quasi appunto delle fabbriche abbandonate, diroccate, lasciate quasi attraversare e occupare da parte delle piante, quasi una sorta di natura che si intreccia in una simbiosi con la tecnologia, con l'aspetto industriale. Bando alle ciance, partiamo con il primo progetto e speriamo di rappresentare a livello sonoro in maniera adatta questo percorso rappresentativo, e partiamo con un progetto che è intitolato Pal Sketcher, personaggio sicuramente conosciuto nell'ambito musicale elettronico, sia della techno ambient che in alcuni casi appunto nelle dimensioni più strettamente elettroniche. Si tratta di Justin Broderick, che appunto ha portato avanti altri progetti precedentemente piuttosto importanti e collaborazioni anche con Boards of Canada e Ulrich Schnaus, per poi andare avanti con appunto dei progetti personali, in particolare questo disco Paul Sketcher The Mixed, che è uscito nel 2009, e ci andiamo a sentire appunto un brano tratto da questo disco e poi rientreremo in voce. Thank you.

Beh, è un bel viaggione sul serio, come si sarebbe detto una volta, ma ci sta veramente tanto. Ci siamo tuffati dentro il mondo suburbano sia di Dim Dyke Stair, che abbiamo ancora in sottofondo, e di Pearl Sketcher, che invece abbiamo ascoltato appunto all'inizio di questo lungo viaggio dentro le suburbanità, Suburban Waves, così è stata chiamata la trasmissione, suoni periferici, sia in senso geografico, un po' come dicevamo prima, ma anche in termini così di suono decentrato rispetto a quelle che sono le centralità musicali di questo momento, ma forse poi dentro un mondo che si va anche da più di anni, sì, più anni, anzi, giochiamo di parole, da più anni, sì, infatti stasera proprio qua. Ma qua c'è un clima strano, infatti, siamo avuto sì, anche due capogiri, effetto Monte. Non la Monti, però è un'altra cosa. Quindi insomma la faccenda ci piaceva, e non solo una questione insomma di piacere, di interesse musicale, ma è anche una faccenda legata al fatto che molte delle musiche importanti, e questo è una sorta di paradosso, sono decentrate in questo decennio appena entrato, sicuramente insomma con l'aspetto insomma degli anni zero, che ha evidenziato questa periferia sonora che insomma riusciva di fatto a creare musicalità nuove. Ci ritroviamo dentro insomma questa frammentazione, questo mondo sonoro frastagliato, e quindi quello che è suburbano, quello che è fuori direttamente dal centro, probabilmente in questo momento sta creando delle situazioni molto molto più interessanti rispetto a quella vecchia forse centralità. Un discorso insomma che stiamo affrontando per buona parte anche proprio in queste prime trasmissioni di 451 frammenti sonori. Non è un caso che il dub, musica assolutamente decentrale, sia adesso sempre periferica, però sia poi di fatto una musica che sta rientrando, un'attitudine dentro molte musicalità, un nuovo aspetto, magari non ancora centrali, ma che di fatto insomma tra pochissimo lo saranno. Pearl Sketcher, quindi progetto di Jester Brodkin, che remixa in realtà se stesso, anche questa sorta di decentramento rispetto alle varie progettualità. Poi Jester Brodkin è un maestro in questo senso, visto che forse 3.000 progetti, tra l'altro decisamente importanti, come Godflesh, dentro progettualità come Head of David, Gisu appunto con progettualità remixata proprio in questo caso, ascoltata Techno Animal, storicissimi, insomma di tutto di più. Poi tra l'altro anche dentro God, insieme all'altro Kevin Martin, ascoltato sul dubstep le scorse trasmissioni, quindi insomma veramente un incrocio di sensibilità decisamente, volutamente anche decentrali, decentralizzate, periferiche, proprio questo cercare insomma di andare sempre fuori dal centro, non sbilanciarsi, non essere mai appunto come dire focalizzati e basta. In questo senso Brodkin, Kevin Martin e quel giro insomma che è anche molto vicino all'Oswell ha sicuramente insomma influenzato questa nuova attitudine sonora che appunto questa sera decliniamo come Suburban Waves. Eh sì, abbiamo mixato intanto questo brano appunto di Pearl Sketcher, in arte Pearl Sketcher e Justin Broderick, con un gruppo, un progetto estremamente importante che ha comunque tra i più interessanti degli ultimi anni, Dim Dyke Stair, che è composto da un duo di Manchester costituito proprio tra il 2008 e il 2009, dunque all'ingresso della cosiddetta crisi mondiale, chissà come mai, Miles Whittaker e Pendle Coven, che hanno appunto realizzato questo progetto che si è mosso fondamentalmente in un ambito sonoro che quasi squisitamente dentro l'idea appunto della trasmissione di stasera di Suburban Waves, tant'è che è dato proprio là questa formazione all'idea di stasera. Si muove appunto in un'atmosfera, che in delle sonorità che mischiano elementi ovviamente techno, elementi dronici, elementi anche chiaramente riferiti a certe sonorità industriali, fino ad arrivare soprattutto nell'ultimo lavoro che adesso andremo a presentare, cioè Triptych, che è un triplo album del 2011 uscito proprio quest'anno. Anno, anche tutta la dinamica più strettamente legata al dub e anche in parte fortemente al dubstep, però rimangono sempre estremamente difficili da catalogare o da indicare dentro un ambito, sono appunto sfuggenti, sono appunto anche loro estremamente decentrati nella lettura anche critica musicale della loro progettualità, e stanno dentro anche e soprattutto nella sonorità scura, molto ritmica, molto profonda, ma anche molto contraddittoria dentro appunto le dimensioni periferiche, che stanno diventando forse più centrali di quello che sono state fino ad adesso, proprio in epoca storica rappresentata ormai negli anni 10, perché ormai siamo nel 2011. Sì, l'invasione dei barbari, vero? Ecco, l'invasione dei barbari, i barbari però vicini, vicini di casa, del quartiere quasi. Dunque, ma era così anche in antichità, di fatto, insomma, erano già entrati, sì, però non avevano preso ancora il, come dire, il potere. Ecco, andiamo adesso a presentare appunto un brano tratto da Triptych. Precedentemente abbiamo mixato con Paul Sketcher del Vindicta Star dall'album di esordio Symbiosis del 2009. Andiamoci a sentire dunque Triptych 2011, l'ultimo lavoro, e ovviamente buon ascolto. Thank you. Dim Dyke, quindi ascoltati anche con il loro trittico, di fatto, che raccoglie materiali usciti in maniera semiclandestina, così curiosamente ci piace definirli, in realtà, insomma, lavori che hanno avuto un seguito relativo, ma d'altronde molte delle proposizioni, a parte le nostre, insomma, di certo non passano personaggi decisamente famosi da queste parti. Ma anche la fama, appunto, adesso e la fame di questa hanno preso, insomma, altre vie. Non si può parlare di certo, insomma, di mainstream come poteva essere una volta, e quindi di formazioni che partendo dal basso arrivavano poi all'alto. Quello è un discorso che proveniva, ad esempio, molto dagli anni '80, quando si pescò, appunto, dai punk, ex punk, e la New Wave poi fu trasformata, insomma, anche in grande business da molti anni. In effetti, poi questo è anche l'interesse che questa sera ci muove dentro le Suburban Waves, quindi suoni periferici, queste sonorità, queste anche galassie proprio sonore che si formano quasi, appunto, maniera di distaccamento, e anche distaccamento extraterrestre, no? Quindi anche riprendendo, insomma, il discorso extraterrestre della techno che abbiamo utilizzato due domeniche fa, extra techno due domeniche fa. Dim Dyke appartengono a questa schiera, a questa galassia, se vogliamo considerarla tale, se non vogliamo, insomma, essere legati alla terra, alla dimensione, insomma, terrestre, se no, appunto, un suono periferico, suburbano, se vogliamo tornare, appunto, sulla nostra terra, un suono che si nutre di varie allusioni, di varie fascinazioni, sia per sonorità di tipo, appunto, post-industriale, e sonorità anche così vagamente campestri, però quella campagna di cui parlavi, appunto, prima tu, l'industria abbandonata che diventa campagna, una forma, insomma, di abbandono che ci fa ritornare a una sorta di natura che natura non è più così, perché di fatto, insomma, è stata deturpata, e forse non esiste neanche più questo deturpamento, visto che poi la ripresa, come dire, riporta a un nuovo scenario post, non si sa. Infatti rimane ignoto, e in questo ignoto entra perfettamente questo personaggio polacco, in realtà Jakaszec. Mikal, bravo, Mikal. Tu sei più vicino ai polacchi, forse, no? Sono sempre stato un po' polacco. Mikal Jakaszec, personaggio che ha iniziato, diciamo, pubblicamente a uscire con i primi album nel 2004, e ha portato avanti un discorso che si è mosso sempre sul terreno elettronico, però con un forte interesse, anche una sorta di incrocio e di rapporto anche con una certa musica elettroacustica, in particolare jazz, e lo sentiremo in questo disco, che è l'ultimo appena uscito, Glimmer, nel 2011, quanto anche una sorta di jazz deturpato, un po' malconcio, zoppicante, appunto, da periferia, un po' rintronata, mischiata, appunto, ad elementi sonori ambientali, a suoni anche in alcuni momenti concreti, per arrivare poi alla fine a una sorta di drone rumorista devastante, quasi in una dimensione di crollo totale e di rabbia anche, che alla fine si esprime in questo coacervo di forte confusione. Ecco, un altro elemento sicuramente che alle volte noterete del percorso sonoro di stasera saranno degli momenti di forte confusione, di caoticità, e momenti, appunto, di slancio, di profondità, di drone, e anche di apertura quasi spaziale, una sorta di viaggio verso qualcos'altro, partendo, appunto, dalla periferia, partendo dalle periferie suburbane. Intanto godiamoci anche Mikal Jakaszec dall'album Glimmer 2011. Devastazione allo stato puro alla fine di questo brano assolutamente interessante di questo Michal Jakaslek, album Glimmer. È una dimensione sonora piuttosto particolare effettivamente, con questi aspetti che richiamavano elementi jazzati e anche dimensioni che quasi anche in alcuni momenti sognanti alla Boards of Canada, inserite poi alla fine in questo contesto di questo drone rumorista che chiude e annienta tutto, però in un'ottica quasi positiva, l'annullamento, la distruzione, e quasi in un'ottica di ripartenza, di ricostruzione di qualcos'altro. Da Jakaslek andiamo a trovare invece un blocco espressivo molto interessante che riprende e riporta al centro la periferia, l'aspetto suburbano, in un'altra ottica. Sì, suono campagnolo, quello folk che tante volte è interessato, 451, legato magari al drone, allo storpiamento o alla dilatazione spaziale di quello che comunque è stato sempre dentro le corde del folk, e qua si unisce appunto l'elettrico ma anche l'elettronico con l'acustico. Se il riferimento più di una volta questa sera lo stiamo facendo su Boards of Canada era quel suono volutamente decentrato e quella campagna più immaginaria, immaginata che reale, un suono bucolico ma che sapeva più di campagna marziana che terrestre, e in questo senso appunto lo spazio anche che stiamo evocando, sicuramente anche il percorso di Black Forest, Black Sea, insieme a Sharon Bide, sicuramente riprendono, ed è chiaro, un filo rosso con il folk storico di matrice chiaramente psichedelica in questo caso, ma dentro appunto ci sono tutte questo smarrimento e anche questo volutamente senso cosmicheggiante e deragliante, poi in termini appunto di dimensione terrestre o dimensione urbana, quindi veramente una sorta di deragliamento, di deriva ricercata, sia dentro la progettualità di Black Forest, Black Sea, molto collegata poi con Sharon Bide, visto che Christina Carter ha fatto parte di tutte e due le formazioni, oramai Black Forest, Black Sea non esiste più, una delle prime formazioni tra l'altro a muoversi anche sul folk dronato, drogato e quant'altro, e soprattutto periferico, come appunto questa sera interessa. E Sharalan Bide, che prendiamo proprio dai primissimi lavori usciti su cassetta, poi ripubblicati intorno alla metà degli anni zero, che anche appunto loro cosmicheggiano in maniera così marziana e con quel ricordo appunto terrestre che mescola appunto acustico, elettrico ed elettronico, tra drone, sogni e quant'altro, insomma, possiate immaginare dentro queste musiche che hanno appunto questo forte potere immaginifico. E poi rientreremo ovviamente dopo il GR di Radio Popolare Network, che ripartirà subito dopo i brani, e noi rientreremo intorno all'una meno 10 circa per la seconda parte di Suburban Waves. Thank you.